Dopo il grande successo del microfono che scotta e la sola dell'avvenire, finalmente in onda su queste frequenze. Sono una donna, non sono una santa, non tentarmi, non sono una santa. Non mi portare nel bosco di sera, ho paura nel bosco di sera. Parola per sé! Con la partecipazione di Santa Milva Daceri e il premio Nobel di Femminismo e Pratica, io voglio praticare, Zarina. Sponsored by Big Mama Simona and Francisca. Autonarrazione. Parla per te. Esperienze. Parla per te. Racconti. Parla per te. Voci. E parla per te. Vite e miracoli. Parla per te. Lavori, sogni e bisogni. Parla per te. Impegni, impicci e capricci. Parola per te! Well, I was in such a state of shock. I completely blacked out. I can't remember a thing. It wasn't until later. When I was washing the blood off my hands, I even knew they were dead. They had it coming! They had it coming! They had it coming! They had it coming! All along! I didn't do it! But if I'd done it, how could you tell me that I was wrong? They had it coming! They had it coming! They had it coming! All along! I didn't do it! Noi viviamo una situazione in cui c'è un'azienda che è stata tradizionalmente un'azienda maschile, maschilista, che si trova ad affrontare le nuove donne. E viene fatta un'opposizione feroce verso di noi. Questa cosa però non smuove nessuna coscienza a livello istituzionale, come se venga considerato normale. Cioè, mi viene detto anche a livello dirigenziale nella nostra azienda, sì, lo so, però è così. No, non è così. È una scelta che sia così, cioè noi abbiamo scelto, noi come gruppo delle vostre storie tramostate, che non sia così. E continuamente ci viene fatta una pressione fortissima per far sì che noi cambiamo idea. E ritorniamo a quelle logiche di sì. Sì, devo dire che è una pressione che, come dicevi tu prima, passa anche attraverso battutine di cattivo gusto, che rappresentano sempre una forma di rabbia, di sfogo, di frustrazione che si esercita anche sotto quel punto di vista lì e quindi, come diceva Manuela, è frustrante anche a livello umano. Quello che percepisco io, insomma, come dipendente è proprio una condizione di ghettizzazione di noi tutte hostess. Sia da parte della dirigenza, insomma, come si è ampiamente detto, ma anche da parte degli stessi colleghi autisti, ripeto, che hanno nostro medesimo inquadramento, stessa retribuzione, con mansioni diverse. E questo è funzionale ad alimentare in noi un culto del capo, perché la dirigenza cerca proprio questo. Non riuscendosi a rapportare ad un livello paritario con i propri dipendenti, hanno bisogno di generare una sorta di timore reverenziale da parte dei propri dipendenti, così come è sempre stato con gli autisti, e cercano di fare la stessa cosa con noi. Non ci riescono e questa cosa genera ovviamente inizialmente frustrazione e poi totale incomprensione. Loro non riescono a rapportarsi con il nostro comportamento, che è quello di semplici dipendenti che si rapportano con un coordinatore, una persona che ha delle mansioni diverse dalle mie, che coordina, gestisce il mio lavoro, senza entrare nel merito delle capacità individuali, ma non ha ricevuto un potere divino, un'elezione, insomma, è semplicemente una divisione di ruoli, di compiti, e loro invece la vivono come insomma, noi dobbiamo riconoscerli, perché la loro forza sta proprio nell'ottenere riconoscimento del proprio potere da parte dei dipendenti o dei sottoposti, come preferiscono considerarli loro. Questa cosa con noi non sono mai riuscita a farla, e ripeto, mentre prima il problema si poneva marginalmente, poiché avevamo dei capi diversi, ora il problema è sentito molto più forte a partire dall'11 agosto in poi, perché loro si sentono i nostri capi e noi questo ruolo non glielo riconosciamo, al di là, ripeto, delle capacità, ma proprio perché è lontano da una nostra logica di lavoro. Quando noi eravamo gestite dalle ragazze del box, non c'è mai stato da parte loro un atteggiamento di questo tipo, nel senso io sono il capo, sono superiore, no, c'è sempre stato un rapporto paritario, io gestisco il tuo lavoro, quindi noi non siamo abituati e non ci pieghiamo a questa logica. A painter. But he was always trying to find himself. He'd go out every night looking for himself, and on the way, he found Ruth, Gladys, Rosemary, and Irving. I guess you could say we broke up because of artistic differences. He saw himself as alive, and I saw him dead. Number 17, the spread eagle. Differences. Pop. Six. Squish. Cicero. Lipschitz. Nel senso, noi ci siamo occupate sempre di questioni giustamente contrattuali, giuridiche, e non abbiamo mai avuto il tempo di soffermarci su questioni interpersonali, perché era una cosa talmente marginale e quotidiana che è passata infatti, proprio. Questa cosa è stata, quello che dicevo prima, è stata riportata da noi ai nostri diretti superiori proprio perché ci siamo resi conto che c'era questa logica in azienda, cioè. Un concetto primitivo del capo, proprio quasi tribale, che va molto al di là del ruolo che si ricopre a livello lavorativo. Cioè, la cosa che noi stiamo cercando di far passare è che a livello lavorativo c'è un contratto che stipula quali sono i limiti di possibilità di agire di una figura professionale che ha un ruolo strutturalmente di coordinamento rispetto a una figura professionale che ha un ruolo da sottoposto. Cioè, il fatto di essere coordinato non vuol dire che il coordinatore ha il diritto di travalicare i confini di quel contratto, e questa invece è una cosa che viene fatta quotidianamente in azienda. Cioè, noi siamo veramente un'azienda che dal mio punto di vista sfiora i limiti dell'illegalità e attua dei sistemi che sono quasi paramafiosi. Cioè, noi ci siamo trovati durante i nostri scioperi nelle rivendicazioni con telefonate a parenti e amici che lavorano nella stessa azienda per avere pressioni, per costringerci ad accettare la loro proposta, che era in realtà un ricatto illegale. Cioè. Ma infatti questo desiderio di riconoscimento di un'autorità assoluta da parte della dirigenza passa attraverso una disorganizzazione totale di aspetti pratici e quotidiani, come la richiesta di un permesso, la richiesta di un piano ferie e così via, o di un cambio turno. Tutto diventa difficile, quasi impossibile, se non elargito dalla somma bontà divina della dirigenza, e quindi è assolutamente illogico. Poi viene fatta veramente una politica di clientelismo, perché noi ci troviamo in una situazione in cui i non iscritti ai Cobas vengono definiti buoni, noi siamo i cattivi, e cosa che può anche farci piacere da un certo punto di vista, però effettivamente viene fatta una, vengono prese delle decisioni discrezionali, non soltanto per quanto riguarda l'iscrizione alle sigle o meno, ma anche per quanto riguarda le parentele proprio. Cioè noi ci ritroviamo in una situazione in cui quello che ci si vuol far credere, quello che ci, si vuol far passare in azienda è che una persona che, ha, che è sposata con un uomo che ha un ruolo di coordinamento ha più potere, tra virgolette, di noi che non siamo sposati con nessuno. Proprio in linea con la logica di alcuni personaggi che al momento sono Presidente del Consiglio, che hanno questa mentalità, cioè che una donna ha possibilità di agire e di far carriera soltanto se sposa l'uomo giusto, ma questa cosa è sottolineata da noi e viene riconosciuta come universalmente valida. But there was two missing. Hit a new mission. How to catch a cheater. If he only used coke, you shouldn't smell reefer. If you know he don't smoke, you shouldn't smell reefer. If you catch him cheating, you shouldn't yell either. Run up on him quietly, choke him out silently. Might sound cruel, but you gotta love the irony. So explain that. Just came back off a trip and I come home to this. Please, he didn't follow the guidelines. So forgive me, Your Honor, but he ran into my knife 5 times. He only had himself to blame. If you'd have seen it, I think that you would have done the same. He had it coming. He only had himself to blame. If you'd have seen it, I think that you would have done the same. He had it coming. He only had himself to blame. If you'd have seen it, I think that you would have done the same. He had it coming. Una delle motivazioni che erano portate dall'azienda per non assumerci, ovviamente tra le righe, era proprio il fatto della possibile maternità, essendo noi tutte donne, quello che veniva detto era che non appena noi avessimo avuto il contratto a tempo indeterminato con l'azienda, immediatamente avremmo tutte usufruito del diritto alla maternità e saremmo rimaste tutte incinta, proprio come se fossimo un branco di pecore che si riproduce tutte insieme. Questa è l'idea che loro hanno, non solo, ma anche l'idea di donne che loro hanno, determina questa mentalità, cioè il fatto che una donna ha come unica finalità nella sua vita quella di fare un figlio, appena ha la possibilità di farlo e comincia a sfornare bambini, e questo denota molto come loro la pensano sulle donne. Take. No, ma è triste vedere come la lenta erosione di alcuni diritti fondamentali come la maternità sia valutata così estranea, che è un altro assurdo della nostra situazione, perché chiunque avrà un fratello, una sorella, una fidanzata che si troverà in quella situazione, quindi di avere riconosciuti dei diritti fondamentali, e la maternità è uno di questi. Ah, poi un'altra delle motivazioni per cui c'è questa feroce aggressione, diciamo, del lato maschile verso di noi, poi tendo a sottolineare che non è proprio universalmente così, c'è anche un gruppo di autisti esiguo che non ha questi atteggiamenti, però un'altra delle cose che veramente disturba questo clan maschilista è il fatto che noi siamo quasi tutte, cioè abbiamo una scolarizzazione molto più alta da loro, e questa cosa gli viene quasi rinfacciata quotidianamente, viene sottolineata da parte nostra che quotidianamente che le università comunque sono pubbliche, tutti ne hanno accesso, quindi non credo che dobbiamo essere criticati perché abbiamo scelto di migliorare la nostra condizione, la nostra cultura, però questo rientra tutto in un atteggiamento di cercare di frenare le donne, cioè a me sembra che c'è alla base di tutto una grande paura, e loro si sono ritrovati, cerco di mettermi nei loro panni, no? Con un attaccamento fortissimo a quel ruolo lavorativo che loro hanno sposato completamente, perché secondo me gli ha dato una identità, e non soltanto un'identità lavorativa ma anche un'identità proprio personale e sessuale. Cioè, ho questa impressione, il fatto che si sono ritrovati a combattere con delle donne che non abbassano la testa veramente li ha spiazzati, continuano a spiazzare tutti i giorni, quindi mettono in campo i loro atteggiamenti da maschietti spaventati, perché poi se uno guarda nei bambini quello che fanno, alzo le mani e ti picchio perché non so più che fare, questo è il risultato. La cosa bella è che più loro fanno così, più noi ci fondiamo come gruppo e diventiamo consistenti, cioè c'è una presa di consapevolezza bellissima. Io ho visto nel giro di 2 anni ragazze che veramente non avevano interesse minimo a determinati discorsi, né alla politica né a niente di tutto ciò, diventare veramente delle persone che si interessano, hanno voglia di migliorare la situazione, e questo è stato possibile perché la nostra determinazione ad andare avanti ci ha portato a dei risultati. Quindi in realtà quello che è successo è stato in parte un po' inconsapevole, però di fatto io adesso mi ritrovo con delle ragazze che mi chiedono continuamente: facciamo dei gruppi studi, approfondiamo il discorso della discriminazione, approfondiamo il discorso della sicurezza sul lavoro. Quindi direi che è stata anche un'esperienza molto bella per noi, anche se ovviamente si può trovare una difficoltà quotidiana che viviamo sempre. No, quello che volevo dire io è che io penso che queste persone prese singolarmente in un'intervista come questa, parlo degli uomini con cui lavoriamo, io sono sicura che non avrebbero mai, non direbbero frasi smaccatamente maschiliste, anche nel quotidiano. Il problema si pone proprio nella condivisione del medesimo ruolo, del medesimo lavoro. È lì che bisogna vedere davvero se esiste una discriminazione, un maschilismo, perché anche il discorso che faceva Paola prima in merito alla diversa scolarizzazione nostra più elevata, io non penso che queste persone abbiano degli atteggiamenti discriminatori nei confronti di ragazze laureate nel loro quotidiano, però ce l'hanno nei confronti nostri, perché si indignano per il fatto che secondo loro noi ci sentiamo superiori al maschio dominante all'interno di un autobus, e questa è una cosa insensata, cioè io non riesco a capire, nel senso, cambia, anziché in un bar dentro un autobus a svolgere il medesimo lavoro, cambia, che cosa cambia? Now we're making change, still it hasn't changed. Now my wrist is playing, I'm still suffering. Yep, I feel your pain when you gotta move out your own ends or get killed by another gang. Since the day I'm born, this is all I know. Been through chasing bones, singing sticks and stone. But in sticks I'm grown, made me find a home. Never turn a hole, so believe it, son. I ain't judging, I'm telling you real is real. Never had a dad, so I know how you feel. But what matters most is you choose a role. Yep, and you're the one. So I know you're grown. You ain't on your own. Billions standing with you. It's a pretty picture. In the words that script, Mrs. Little Mister, set your own rules, 'cause you're free to choose. Yeah, we're free to penso che siano delle cose veramente profonde per quanto che riguarda, anche perché, come dicevo prima, loro si trovano, cioè, a confrontare la loro esperienza con la nostra esperienza. Loro c'è un fortissimo clientelismo all'interno di Tramus, e quasi tutti i nostri colleghi sono entrati tramite raccomandazioni sindacali o parentali, queste sono le forme di ingresso nell'azienda di solito. Siccome noi veniamo invece da una storia in cui era il lavoretto veramente pagato con due soldi, estremamente precario, ovviamente nessuna di noi, o quasi nessuna, è entrata tramite una raccomandazione, ci mancherebbe altro per un lavoro che una raccomandazione. Quindi noi siamo entrati in azienda sfondando la porta, non chiedendo scusi, per favore ci faccia entrare, e l'abbiamo fatto grazie al fatto che siamo determinate come donne, e il fatto anche che avevamo un certo tipo di scolarizzazione, perché la rivendicazione si è basata anche su quello, per rivendicare determinati livelli, il fatto che comunque noi facciamo un'assistenza turistica, quindi minimo ci venivano richieste un diploma, la conoscenza di due lingue. Questa cosa a livello legale, a livello retributivo salariale, va comunque sottolineata. Non puoi farmi fare un lavoro che richiede una determinata professionalità, però siccome sono donna devi essere comunque inquadrata al di sotto dell'autista, che questa professionalità non l'ha, cioè noi non facciamo un discorso discriminatorio, al contrario, non è perché loro sono uomini, hanno una professionalità diversa, loro hanno il diritto a essere pagati e retribuiti secondo quella professione. Noi abbiamo un certo tipo di professionalità e facciamo un discorso soltanto per quanto riguarda il nostro cammino e la nostra situazione lavorativa, non entriamo in confronto, in conflitto con i maschi, sono loro che cercano di tenerci a freno, perché questa cosa, ripeto, secondo me li spaventa da morire. Anche per quanto riguarda il discorso sindacale, noi all'interno dell'azienda abbiamo diverse file, ovviamente i rappresentanti erano, prima del nostro arrivo, tutti uomini, e non vedo molto bene di buon occhio il fatto che noi siamo così fortemente inseriti all'interno della struttura sindacale. Anche da quel punto di vista viene ostacolato fortissimamente le rivendicazioni che facciamo. Anche la cosa paradossale, che è contro i loro interessi, perché non riusciamo a creare una situazione di rivendicazione generale, proprio perché non bisogna sottolineare il fatto che noi non siamo riusciti a fare questa cosa. E quindi a volte, cioè in una situazione delicata come quella che si sta verificando adesso, che parliamo di un'armonizzazione che ci può in realtà indurre tutti quanti in una situazione peggiore di quella in cui siamo adesso, e la preoccupazione di alcuni di questi uomini è soltanto che noi non affiggiamo i cartelli là dove affiggono loro, cioè noi ci troviamo a vivere tutti i giorni questi paradossi, stanno perdendo a livello di possibilità di rivendicazione, a livello inquadramentale moltissimo con la proposta aziendale, quella cosa non li preoccupa, li preoccupa che noi non affiggiamo cartelli vicino ai loro cartelli. E questa è veramente un'assurdità. Kiss me, honey, honey, kiss me. Throw me, honey, honey, throw me. Don't care even if I blow my top, but honey, honey. chiaro, l'inquadramento dove quest'estate volevano infilarci molto a forza era quello appunto di addetti all'ingrassaggio dei mezzi, quindi le colf, infatti la indicazione è stata basata su questo, che da accompagnatrici, diciamo da hostess, comunque assistente alla clientela, eravamo arrivati a essere le colf dell'azienda, perché al massimo se una donna proprio si deve far lavorare e proprio non vuole stare a casa e impastare fettuccine, al massimo la donna della pulizia. Non parliamo a livello dirigenziale, che è proprio inesistente il concetto di una donna a quei livelli. Sì, poi viene attuata quotidianamente un atteggiamento che tende a sminuirci sotto ogni punto di vista. Nothing. I who have no one, adore you and want you so. I'm just a no one with nothing to give you but all. Noi veniamo considerate come dei bei pezzettini di carne, sì. Ben vestite, ben truccate, ma che essenzialmente non sanno fare nulla. Quindi come se ci fosse stato concesso un lavoro che nemmeno ci meritiamo, un lavoro che non richiede la minima capacità decisionale, intellettiva, viene continuamente sminuito ciò che facciamo, ciò che sappiamo fare, la nostra professionalità, il nostro ruolo. L'azienda viene sminuito continuamente, cioè mi sono trovata io davanti a un ragazzo che fa il meccanico nella nostra azienda e che ha 20 anni e diceva appunto che le hostess non contano niente. Quindi ovviamente c'è stato anche abbastanza un risentimento su questa cosa, gli è stato fatto notare che non so, anche noi non contiamo niente, siamo state le uniche a essere in grado di mettere in ginocchio l'azienda. E però è una situazione estremamente pesante, perché è proprio riproposta quotidianamente da parte di tutti lì. Cioè non, difficilmente, anche autisti che adesso sono entrati nella nostra struttura sindacale, però non sempre riescono a riconoscere il nostro ruolo, cioè nel senso, magari ci hanno detto sì, però magari sai, non venite nelle riunioni di noi autisti, come diceva Manuela prima, perché poi non si accetta un ruolo paritario. Esatto. You buy her diamonds, right? Sparkling diamonds, but believe me, dear, when I say that she can give you the world, but she'll never love you the way I love you. Allora, nel senso, per loro ci può essere uguaglianza solo con la precondizione della separazione. Una volta che c'è l'unione, l'uguaglianza non la si accetta. E questo però fa sì che non abbiano alcun senso delle rivendicazioni sindacali congiunte. Sì, appunto. E questo è una grave perdita. Questa è la grossa nostra delusione, che anche la nostra volontà di unirci fallisce di fronte a questo tipo di meccanismi che vanno al di là, penso, di ciò che è cosciente. Infatti il discorso che facevamo prima, noi la nostra volontà come gruppo si sta un po' trasformando, perché da una volontà puramente rivendicativa adesso sta diventando proprio una volontà di intervenire su una mentalità, su una cultura, e questa cosa viene fatta moltissimo per quanto riguarda i nostri colleghi che sono all'interno della nostra struttura, che tendenzialmente i Cobasso sono una struttura che difendono il ruolo della donna e la parità della donna con l'uomo, quindi cerchiamo anche di modificare la mentalità e è molto difficile, anche se delle piccole cose, cioè io sono una delle RSA, mi sono trovata persino un autista che invece di, ovviamente abbiamo eletto anche RSA maschi perché sia paritario, perché anche gli autisti possano avere il loro difensore omologo, diciamo, dal punto di vista sessuale. Esatto, perché carità, fa prendere la madonna, invece mi sono trovata con uno degli autisti che ha chiesto di avere una problematica, mi ha chiesto di intervenire, io veramente sono rimasta stupita moltissimo, però è un po' una mosca bianca, però mi rendo conto che il nostro sforzo deve essere in quel senso, cioè noi avremo veramente vinto la nostra rivendicazione quando cambieremo le teste di quelle persone. I'd like to play a little game with you, a little game especially made for two. If you come closer, I will show you how. Closer, closer now. Kiss me, honey, honey, kiss me. Throw me, honey, honey, throw me. Don't care even if I blow my top, but honey, honey, don't stop. We've never played this little game before. If you relax, then you'll enjoy it more. Just settle down and let me teach you how. Closer, closer now. Kiss me, honey, honey, kiss me. Throw me, honey, honey, throw me. Don't care even if I blow my top, but honey, honey, don't stop. You kiss so well, my lips begin to burn, and I can tell I've got a lot to learn. So hold me close and darling, show me how. Closer, closer now. Kiss me, honey, honey, kiss me.